Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Un Salva Danaio che oggi torna a parlare di un tema che interessa a tutte quelle famiglie che hanno o vorrebbero mettere in cantiere, in qualche caso anche da diversi anni, ma sono spese che spesso vengono rimandate perché sono piuttosto onerose, dei lavori di ristrutturazione per la propria casa. Torniamo infatti a parlare dei bonus fiscali del 55% e del 36%, quei bonus previsti rispettivamente per la riqualificazione energetica della casa e la ristrutturazione dell'edificio. Il primo scade quest'anno, come sapete, mentre il secondo, in teoria, possibile ancora per tutto il 2012, potrebbe essere vittima dei tagli lineari della manovra fiscale. Non è la prima volta che annunciamo la possibile interruzione dell'erogazione di questi incentivi, che sono stati in passato già più volte prorogati fino al punto da diventare quasi misure strutturali, ma non è detto che non ricapiti per come vanno le cose in questi mesi. Però un rinnovo del bonus del 55% appare al momento meno probabile. È possibile una rimodulazione e le voci che ci sono appunto parlano di una riduzione della misura al 41% di incentivo. Chi pensa di dovere prima o poi ristrutturare la propria casa potrebbe evitare futuri rimpianti anticipando comunque i lavori e provare a cogliere questa occasione fino a quando è sicura, sicuramente fino alla fine dell'anno. Oggi faremo il punto su queste scadenze, ma andremo anche ad illustrare le novità normative che sono state portate, che sono state introdotte negli ultimi mesi dalle numerose manovre che si sono susseguite, che riguardano vari aspetti da conoscere per poter beneficiare di queste agevolazioni. Tutto questo perché oggi peraltro sul tema è in edicola la nuova guida pratica del Sole 24 Ore, lavori in casa, i bonus fiscali. Cristiano Dell'Oste se ne è incaricato integralmente come al solito. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, prima di sentire la nostra scheda dove riepiloghiamo le modalità, il funzionamento di questi incentivi, Cristiano, magari raccontiamo subito come funziona la guida, chi sono gli esperti che ancora una volta il Sole ha messo a disposizione e come è possibile inviarvi i quesiti. Certo, la guida come al solito integra diversi strumenti, quindi abbiamo intanto l'inserto che è in edicola con il giornale di oggi in regalo all'interno del giornale, poi c'è un forum online, è possibile fino alle 18 di oggi inviare i propri quesiti, l'indirizzo è quello del Sole 24 Ore, quindi www.ilsole24ore.com/guida casa, scritto tutto attaccato. In questa sezione del sito si possono inserire le proprie domande, una selezione delle risposte ai quesiti di interesse generale la pubblichiamo domani sul Sole 24 Ore, le altre poi a seguire sul sito. E sempre abbinato alla guida, da domani ci sarà poi online allo stesso indirizzo un dossier con una serie di contenuti integrativi, con dei video, la documentazione e insomma qualcosa per chi vuole fare un passo in più. Nel parterre dei tecnici messi a disposizione dal Sole 24 Ore per rispondere alle domande dei lettori c'è anche il nostro esperto, colui cioè che coinvolgiamo molto spesso nelle trasmissioni in cui parliamo di questi argomenti, Luca De Stefani, che saluto. Buongiorno e bentornato, buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, naturalmente, oltre alla possibilità di inviare quesiti al Sole 24 Ore attraverso appunto il sito, potete rivolgerne anche a noi questa mattina chiamandoci all'800 24 00 24 oppure scrivendoci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di partire ed entrare nel vivo di questo tema che in genere vi appassiona molto, diamo un'occhiata anche all'altro tema che in questo periodo ci appassiona non poco, anzi qualche volta ci fa anche venire dei sonori infarti, il quadro di borsa. Stamattina appare tutto piuttosto positivo, c'è un bel balzo dell'euro sul dollaro a 1,3578 in un mercato che crede a questa intesa che è stata in qualche maniera siglata, anche se in via informale, tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Sarkozy nel fine settimana, per l'appunto sul piano di ricapitalizzazione delle banche europee, misure appunto che nel futuro intendono in qualche maniera salvaguardare la zona euro da altri momenti di tensione e crisi come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Tutto questo verrà discusso naturalmente più dettagliatamente nei prossimi vertici europei, ma questa intesa naturalmente viene salutata stamattina con un certo brindisi dalla borsa. Oltre a questo è intervenuto nelle ultime ore anche il piano di salvataggio attraverso una nazionalizzazione da parte del governo belga della banca franco-belga Dexia, e dunque il mercato parte bene con il piede giusto in questa settimana. Più 0,94% in questo momento la borsa di Parigi, più 0,42% per la borsa tedesca, Londra più 0,76%, a Milano più 1,59%. A Milano stamattina brindano con un rialzo di oltre 3 punti i titoli Tenaris e Prismian, Generali più 2,74%, Unicredit tra i migliori titoli bancari più 2,73%, Mediolanum più 2,65%. Tra gli altri rialzi di circa 2 punti segnaliamo Tots, Buzzi, Unicem e il Banco Popolare. Segno meno invece per lo 0,7% circa su Fiat Industrial e sul Banca Monte dei Paschi, meno 0,06% per Snam e Rete Gas. Oggi era chiusa per festività a Tokyo, nonostante ci sia una festa molto importante negli Stati Uniti perché si celebra il Columbus Day, oggi Wall Street rimane aperta. È molto interessante oggi peraltro vedere quello che accade a Milano, perché ricordiamo che venerdì su Piazza Affari, sul mercato italiano, sul debito italiano è arrivata un'altra tegola, e c'è la bocciatura della terza agenzia di rating, quella che mancava all'appello. Fitch ha declassato l'Italia, ma a quanto pare ormai a queste sberle veramente il nostro paese è abituato e il mercato oggi se ne disinteressa abbastanza tranquillamente. Infatti, appunto, come vi dicevo, l'indice viaggia in rialzo dell'1,61%. Direi che possiamo lasciare la borsa, andare subito al tema di oggi. Facciamo il punto sui bonus fiscali per chi vuole ristrutturare la propria abitazione. La ristrutturazione della casa comporta spesso lavori impegnativi e faticosi, oltre che costosi, e che proprio per questo in molti casi, per pigrizia o necessità, vengono posticipati per anni e anni in attesa di tempi più tranquilli. Potrebbe essere questo invece il momento buono per decidersi a metterli in cantiere ed evitare futuri rimpianti di fronte ad un conto ben più salato. Gli ultimi mesi dell'anno rischiano infatti di essere l'ultimo periodo favorevole per approfittare dei bonus fiscali del 55-36%, previsti rispettivamente per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici, di cui hanno già beneficiato più di 1 milione di contribuenti. Il primo incentivo, quello del 55%, pensato per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, scadrà infatti con la fine del 2011, dopodiché rischia di non essere prorogato o comunque nettamente rimodulato. Il secondo è previsto in teoria fino al 31 dicembre 2012, ma potrebbe essere vittima dei tagli lineari previsti dalla manovra di Ferragosto. Le diverse finanziarie degli ultimi mesi hanno inoltre cambiato molte delle norme che regolano l'erogazione dei bonus. Ad esempio, dal 14 maggio scorso non va più inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori e il costo della manodopera non va più riportato separatamente nella fattura. Dal 17 settembre, poi, ha debuttato, andando ad incidere anche sull'edilizia, la nuova IVA al 21%. Allora, tante modalità oggi per inviarci dei quesiti. Potete scrivere al Sole 24 Ore, perché oggi la guida in edicola con il quotidiano riguarda proprio questo argomento, quindi potete collegarvi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/, che è la consueta barra di traverso guida casa. Quindi prima modalità, seconda modalità, quella che conoscete se ascoltate la radio più che leggere il giornale, quindi potete chiamarci all'800 24 00 24, potete scriverci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Cristiano, questi due incentivi sono stati largamente utilizzati dalle famiglie italiane negli ultimi anni. Ancora una volta sul Sole oggi presentate un bilancio di come è stato fruito questo incentivo. Sì, certo, diciamo che al di là della guida abbiamo voluto fare un po' il punto sull'utilizzo di questi due bonus, che sono sicuramente un fenomeno importante e interessante. Negli anni, da quando esistono fino alla fine del 2010, quindi senza contare poi le domande fatte quest'anno che non sono ancora state appunto conteggiate, sono... Mi veniva da dire non sono ancora state censite, ma la parola censimento è bene che non la utilizziamo non in queste usarla, ore, infatti. Esatto. Sono stati più di 5 milioni e mezzo, tra 36% e 55%. 5% gli incentivi, diciamo le pratiche di incentivi che sono state attivate. Quindi questo fa capire bene che su 24 milioni e mezzo di proprietari di casa che ci sono in Italia, una buona fetta ha utilizzato questo meccanismo, che è un meccanismo che costa alle casse dello Stato, ovviamente, perché l'incentivo che viene restituito in 10 rate annuali ai contribuenti ovviamente pesa per l'erario, ma che ha diverse finalità, e questa è una delle ragioni per cui noi abbiamo anche voluto fare il punto, perché oggi si parla di taglio della spesa, ma bisogna anche ricordare che questi due bonus servono da un lato a far emergere lavori che spesso nell'edilizia rimarrebbero in nero, e dall'altro, se pensiamo poi in specifico, eviterei peraltro di utilizzare il condizionale esatto, e dall'altro servono anche per il 55% a contenere i consumi energetici, e quindi hanno una finalità più generale, ecco. Più estesa, certo. Tra l'altro abbiamo già spiegato che c'è così nell'idea del governo la possibilità che questi incentivi vengano rimodulati, poi vedremo che cosa è lo studio, ma l'obiettivo è quello di effettuare dei tagli lineari, si dice in gergo sì, tremontiano. Che cosa vuol dire, Cristiano? Ma qui vuol dire che sostanzialmente il meccanismo messo a punto dalla manovra di Ferragosto, che ha anticipato di un anno il pareggio di bilancio, quindi l'obiettivo di portare appunto in pari i conti pubblici al 2013, dice sostanzialmente questo, che se non viene fatta la riforma fiscale, nell'ambito della quale quindi potrebbe trovare spazio anche un riordino di tutti i bonus, non soltanto di quelli legati alla casa, ecco, se la riforma fiscale non viene fatta, da gennaio 2012 scatta un taglio appunto lineare che sarà per il 2012 del 5% di tutti i bonus, quindi compresi anche ad esempio quelli che riguardano il lavoro, non soltanto quelli che riguardano la casa. Ora, come immaginare un taglio del 5% sul 36%? È un po' complesso, diciamo che servirà poi comunque un chiarimento, perché non è che si può dire diventa 31, non sarebbe così lineare la cosa, bisogna un po' vedere come lo si rimodula. Nel frattempo quello che di sicuro sappiamo, ed è anche il motivo per cui oggi abbiamo voluto pubblicare questa guida, è che fino al 31 dicembre, tagli o non tagli, proroghe o non proroghe, le detrazioni sono nella forma in cui le abbiamo conosciute fino adesso, e quindi abbiamo voluto, come dire, dare un po' l'occasione a chi magari ha già dei cantieri in corso di capire bene quali spese possono rientrare ancora nell'agevolazione, diciamo, vecchia maniera. Certo, tra l'altro, appunto, vecchia maniera, 55% per chi ha in corso dei lavori per la riqualificazione energetica della propria casa ha già subito in qualche maniera un ritocco del funzionamento di questo incentivo, perché prima era spalmato su 5 anni e vale questa regola fino a... Guarda, il 55%, l'unica cosa che hanno toccato è la spalmatura delle rate, però l'hanno toccata 4 volte in 5 anni, quindi hanno fatto diversi cambiamenti. Diciamo che le spese sostenute fino alla fine dell'anno scorso, quindi fino alla fine del 2010, vengono ripartite in 5 rate. Quelle sostenute quest'anno vengono ripartite invece in 10 rate annuali, come per il 36%. Esattamente. Allora, Luca De Stefani, prima di entrare nel merito delle novità, perché ce ne sono tante altre che sono state introdotte nelle numerose manovre dell'ultimo periodo, non solo quelle estive, quelle che hanno l'obiettivo appunto di portare all'anticipo del pareggio di bilancio del nostro paese, ma c'è stato anche un altro intervento che risale al 14 maggio scorso, poi ne parleremo. Le faccio subito una domanda, poi dobbiamo già fare la prima pausa, che ci rivolge un ascoltatore che, poverino, ci racconta che ha effettuato la riqualificazione energetica della sua abitazione, ha installato un impianto geotermico, ha fatto tutto, ha effettuato pagamenti tramite bonifico riferiti a questa detrazione, ma la ditta che gli ha fatto i lavori è fallita, rischia di perdere il bonus fiscale, ma se lui ha già pagato e può dimostrarlo all'Enea, così come all'Agenzia delle Entrate, non vedo il pericolo. Sì, non ci sono problemi. Si è fatto i bonifici bancari indicando le corrette causali, e se comunica all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati e la scheda tecnica, non vi è nessun problema. Ah, perché lui aggiunge anche un altro punto nella sua domanda. Posso far fare le certificazioni a qualche altra ditta? Ma all'Enea deve essere inviata la certificazione energetica, e comunque per fare questo invio è necessario l'ausilio di un tecnico abilitato, che può essere un architetto, un ingegnere. Esatto, e quindi potrebbe essere un soggetto diverso dalla ditta che ha effettuato il lavoro. Quindi Gianfranco, da dove che ci scrive, da Arezzo credo, può ritenersi tranquillo, o se vuole mettiamo anche per iscritto tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Adesso abbiamo la nostra prima pausa e poi cominceremo a sentire i nostri ascoltatori, che sono davvero tanti come immaginavamo. Eccoci a Salvadanaio, Salvadanaio che oggi ritorna su uno dei vostri argomenti preferiti, anche se a causa della crisi, per la verità, sono diventati via via un po' meno i vostri preferiti. Lo sono ancora in via virtuale perché molti di noi vorrebbero abbellire la propria abitazione facendo dei lavori di ristrutturazione, ma magari con qualche cambiamento delle condizioni economiche delle famiglie questi lavori sono stati magari rinviati, con la speranza che i bonus fiscali previsti fino a questo momento fossero mantenuti. Così non è, perché qualche novità arriverà. Allora, tanto per cambiare, il bonus fiscale del 55% per la riqualificazione energetica dell'abitazione termina a dicembre, a meno che non venga riproposto in un'altra versione più ridotta l'anno prossimo. Questo è in discussione. Quello del 36% invece, Cristiano Dell'Oste, ricordiamolo, dovrebbe valere fino al 2012. Esatto. Ma non è detto che qualche ritocco possa subire anche questo? Esatto, questo è quello che dicevamo prima della pausa, cioè ad oggi il bonus è prorogato fino al 31 dicembre 2012 e per le persone fisiche, quindi per i contribuenti, per i privati, per i proprietari, farà riferimento la data del bonifico, quindi anche chi non avesse poi finito i lavori entro la fine del 2012 per le spese sostenute entro il dicembre potrà comunque avere la detrazione. Poi pende la spada di Damocle dei tagli lineari di cui dicevamo prima o della riforma fiscale, o l'una o l'altra cosa, e qui dovremo stare a vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se e cosa cambierà, perché poi potrebbero anche decidere di lasciare quella parte di detrazione, quindi il 36%, indenne dai tagli. Certo. Però bisognerà vedere. Visto che c'era la promessa di mantenere questa formula almeno fino al 31 dicembre del 2012, che sa che questa non rimanga appunto inalterata nella formulazione attuale. Allora, visto che siamo proprio su questo argomento, e per chi fa i lavori a cavallo, cioè magari per chi li ha già iniziati e dovrà terminarli l'anno prossimo, sono queste un po' le situazioni più problematiche. Luca da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori. Io proprio in merito a questo avevo una domanda da fare. L'attività di ristrutturazione non è ancora partita, ma ho fatto domanda per le pratiche comunali, quindi molto probabilmente inizierò i lavori all'inizio dell'anno prossimo. Volevo chiedere se fosse possibile anticipare alcune spese, o se le spese che sostengo adesso, parlo per esempio per l'architetto, possono appunto rientrare nell'agevolazione fiscale col bonus al 36 o il 55, ancor prima della comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Pescara ad inizio attività dei lavori. Allora Luca, intanto, tanto per cominciare, visto che ha già comunicato, che ha citato Luca il tema del ruolo del centro operativo di Pescara, possiamo, Luca De Stefani, ricordare che per esempio non è più necessario, no, mandare la lettera che comunica l'inizio dei lavori. Luca De Stefani, sì. Pronto? Sì. Certo, allora dal 14 maggio del 2011 di quest'anno non è più necessario, ai fini del 36%, inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori. Era un obbligo che è rimasto in vigore fino al 13 maggio di quest'anno di comunicare i dati catastali dell'immobile prima di iniziare i lavori. Questo obbligo non c'è più. Per quanto riguarda, ma se non ricordo male, le faccio fare un'altra precisazione, poi andiamo al caso del nostro ascoltatore di Varese. Sono stati alleggeriti forse anche gli obblighi nei confronti del comune relativamente alla DIA? Sì, beh, per quanto riguarda, sì, ci sono delle agevolazioni anche per le comunicazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sempre dal 14 maggio. Poi un'altra agevolazione di carattere fiscale è quella invece dell'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera all'interno della fattura, e quindi la fattura che io ricevo dall'impresa costruttrice non deve indicare il valore della manodopera utilizzata. Allora, Luca ha già fatto la sua DIA e quindi ha comunicato al comune la data di inizio lavori presunta, appunto, ma comincerà a farli il prossimo anno. Credo che però ovviamente abbia già interpellato aziende, imprese, abbia già un'idea di quello che deve fare. Che cosa può pagare Luca prima per poter evitare di rischiare di perdere i bonus o comunque di vederseli ridotti, De Stefani? Ecco, per il 36% la agevolazione c'è quest'anno e anche il prossimo anno, quindi diciamo che non c'è nessuna perdita di agevolazione. Può però anticipare l'inizio della detrazione del 36% da quest'anno se effettua i pagamenti quest'anno tramite bonifico bancario. A prescindere quindi dall'effettivo inizio di lavori, che può essere effettuato il prossimo anno, è possibile iniziare a pagare degli acconti o degli anticipi anche per lavori ancora da svolgere, per l'architetto l'architetto, per il progetto, ma anche per l'impresa stessa o per l'acquisto di materiali necessari. Sì, immaginiamoci l'impresa che dica no grazie, non anticiparmi niente per carità, perché non è necessario, aspettiamo di finire i lavori. Quindi quale impresa le dirà di no, Luca? Tanto avrà un'idea di massima di quanto spenderà, avesse fatto un preventivo, non lo so, di 50.000 euro, tanto a fine lavori aumentano sempre di almeno il 10-15%, magari insomma 30.000 li può cominciare a dare. Adesso chiaramente sparo delle cifre a caso, Cristiano, però credo che l'azienda, l'impresa che farà i lavori sarà più che contenta. Certo, l'impresa di sicuro non è scontenta, si tratta magari di definire un contratto con le opportune garanzie, visto che si va a pagare ottimo. In anticipo, ecco, però la soluzione può essere questa, quantomeno per far ricadere una parte delle spese nella detrazione o nel periodo in cui la detrazione siamo sicuri che c'è. Ecco. Allora, chi facciamo intervenire adesso? No, volevo fare un'altra domanda, Luca De Stefani, perché mi è venuta in mente adesso guardando un comunicato stampa che è arrivato sulla mia mail da parte del Codacons, l'associazione dei consumatori, che ancora una volta prende di mira il comportamento di Mister Prezzi, che non starebbe tenendo adeguatamente sotto controllo il mondo del commercio per tutte le speculazioni che sono scattate da quando è scattato un aumento dell'IVA al 21%. Per i lavori di riqualificazione energetica della casa, per i lavori di manutenzione straordinaria, i lavori di ristrutturazione, rimane l'IVA agevolata 10-4% a seconda degli aspetti. Ce ne sono due, se non mi sbaglio, Cristiano, no? Sì, esatto. Diciamo che al 90% dei casi parliamo di IVA al 10%. Poi il 4% rientra nell'abbattimento delle barriere architettoniche, oppure quando si vanno a fare dei lavori su una casa costruita con i benefici primari. Casa. Una super agevolazione. Ammettiamo appunto che rimanga quella del 10%. Il 21% tocca in qualche maniera, Luca De Stefani, ci sono dei beni, dei servizi che potrebbero essere toccati appunto da questo aumento? E magari, non lo so, una persona si rivolge ad un professionista che gli fa un preventivo e gli indica da qualche parte questo 21%, il committente del lavoro potrebbe dire: ma guarda, io so che nel lavoro di ristrutturazione vale l'IVA agevolata al 10%, e quindi magari la contesta, ma in realtà non è così al 100%. Allora, ci sono dei casi in cui si ha l'IVA al 21% nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili diverse da abitazioni, perché allora se abbiamo un'abitazione e questa viene ristrutturata ho sempre l'IVA al 10%, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, che per il risanamento e per la ristrutturazione edilizia. In questi casi ho sempre il 10% per l'abitazione, ma se sto ristrutturando un immobile diverso dall'abitazione, quindi può essere un ufficio, un negozio, un capannone intestato alla persona fisica ma anche ad un'impresa, ho l'IVA del 10% solo per le ristrutturazioni e per il risanamento conservativo, non però per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Però la prestazione dell'architetto, per esempio, avrà l'IVA aumentata. Sempre al 21%, in ogni caso al 21%. Allora, chi andiamo a sentire adesso? Qualche ascoltatore che aspettava da un po', Flavio da Modena. Flavio? Sì, sono Flavio da Modena. Mamma mia, dove sta Flavio stamattina? Sulle montagne? Sento. No, perché sono a piedi qua in una strada e la sento un po' in difficoltà. Allora, il mio quesito è questo. Io ho montato un paio d'anni fa una porta blindata. Sì. Ho preparato tutta la documentazione, pagato come si deve, mandato per comandata la lettera, tutto quanto. Però mi sono dimenticato, c'è stato un disguido tra me e il commercialista. Eccolo là. È stata inserita nella denuncia dei redditi questa detrazione. Non è stata inserita. Ecco, ora, a posteriori, posso chiedere un rimborso, fare qualcosa per chiedere questi 2 anni di cui non ho goduto il rimborso? Sì, Flavio, grazie. Si goda la sua passeggiata stamattina. Luca De Stefani, quando fa la dichiarazione dei redditi si scorda di mettere le detrazioni chieste dai suoi clienti, insomma, cosa succede in questo caso? Assolutamente. No, ecco, allora nel caso del nostro ascoltatore è possibile chiedere rimborso per l'anno in cui si è dimenticato di indicare la spesa agevolata nella dichiarazione di redditi, e il rimborso sarà pari alle maggiori imposte che sono state pagate a seguito di questa dimenticanza. Poi noi ricordiamo che per il 36% la detrazione viene ripartita in 10 anni. Per il secondo anno è possibile iniziare a inserire la spesa detraibile nella dichiarazione appunto relativa al secondo anno e continuare quindi anche negli anni successivi. Quindi l'agevolazione non viene persa per le rate successive. Appunto, quindi insomma l'ascoltatore può tornare tranquillamente dal suo commercialista o cambiarlo direttamente, farsi fare una consulenza migliore. Dunque, chi sentiamo adesso? Salvatore da Treviso. Bene, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho iniziato i lavori l'anno scorso a ottobre, sì, per un ampliamento, seguendo una legge che era venuta dall'Agenzia delle Entrate, dove diceva ampliamento locale, demolizione o costruzioni o ampliamenti, volumetrie esistenti, purché non questo sia nuovo appartamento. Questo era il piano casa però, Salvatore. Esatto, io ho fatto il piano casa perché c'era la detrazione del 36%. No. Allora, aspetti lì un attimo che già vedo Cristiano che scuote la testa. Sì, perché questa è una cosa di cui ci siamo occupati diverse volte, nel senso che quando sono uscite le varie leggi regionali sul piano casa sono stati in molti a dire bene, adesso ingrandisco la mia abitazione e poi beneficio anche sulla spesa dei lavori della detrazione del 36%, o visto che molte leggi sul piano casa imponevano anche la riqualificazione energetica, beneficio addirittura del 55%. Però quasi subito le entrate hanno chiarito che l'ampliamento viene a essere considerato come nuova costruzione. E allora, siccome le detrazioni riguardano il recupero, la riqualificazione o la ristrutturazione di edifici esistenti, se quella parte che io aggiungo è nuova, sulla parte nuova non ho diritto alla detrazione né del 36 né del 55%. Una cosa che hanno concesso è che se io intervengo sulla mia abitazione, faccio una ristrutturazione complessiva e in più la ingrandisco, ho diritto al 36% e o al 55% sulla parte, diciamo, già esistente, sulla parte di casa vecchia che io sono andato a ricostruire o a ristrutturare. Sulla parte nuova purtroppo no. Allora, Salvatore, c'è ancora in linea? Sì, sì, sono abbiamo in linea. Chiarito i suoi dubbi, lei stava facendo... sono stati chiariti, no? Perché me l'aveva già chiariti il commercialista. Sta di fatto però che io ho fatto tutti i lavori perché avevo scaricato la pagina a novembre dell'anno scorso, no? Ho fatto subito i lavori in due mesi e mi sono ritrovato ad aver speso 70-80 mila euro e non avere più niente da detrarre. Per un comunicato che non l'avevo fatto io, ma l'aveva fatto l'Agenzia delle Entrate, cioè in mano la copia originale. Ha capito? Cioè, ho capito io che loro hanno chiarito tutto quanto, però a mio sgravio. Non so, Salvatore, non è che un dispetto fatto a lei, come sa, ed è il tema che abbiamo affrontato anche all'inizio trasmissione. Purtroppo questi incentivi sono stati largamente utilizzati, queste e anche altre opportunità che sono state date in questi anni dallo Stato per movimentare il settore dell'edilizia, per far emergere tanto, tanto nero, però poi le cose cambiano e ogni volta molti contribuenti appunto finiscono ovviamente in questo ginepraio di norme e non si fa in tempo appunto a poterli utilizzare al meglio tutti gli incentivi di cui parliamo. Allora, ci dobbiamo fermare adesso, abbiamo i suggerimenti perché in viaggio, poi volevo commentare l'SMS di un ascoltatore che mi dice: ma siete impazziti, state consigliando di dare soldi in anticipo ad un'impresa di costruzioni, pura follia. Non è esattamente quello che abbiamo detto, adesso precisiamo anche tutto questo. Eccoci ritrovati in diretta oggi a Salvadanaio, grazie anche alla guida del Sole 24 Ore in edicola quest'oggi. A Salvadanaio facciamo il punto sui bonus fiscali per fare dei lavori in casa, sia che siano dei lavori di manutenzione straordinaria, sono quei lavori appunto che permettono di ottenere una restituzione da parte dello Stato del 36% spalmati in 10 anni delle spese sostenute, oppure c'è il bonus fiscale più ampio, quello che invece riguarda la riqualificazione energetica della casa. In questo anno il 55% restituito dallo Stato, però in 10 anni. Fino all'anno scorso appunto il bonus poteva essere restituito in 5 anni, negli anni precedenti c'erano delle scadenze ancora diverse, però insomma adesso commentiamo un po' lo stato attuale dell'arte. Siccome questi due incentivi potrebbero subire dei ritocchini, anzi quello del 55% termina quest'anno e potrebbe essere non più prorogato, per il 36% vale invece fino al 31 dicembre del 2012, ma c'è un'idea di fare qualche ritocco sulla sua modalità di erogazione, anche sulla percentuale appunto da restituire ai contribuenti. E noi abbiamo così messo un po' la pulce nell'orecchio degli ascoltatori che stanno facendo, sono in procinto di dare il via a lavori così importanti per la propria casa. Attenzione, monitorate un po' i cambiamenti che stanno avvenendo, perché magari dal prossimo anno lo Stato potrebbe restituirvi un po' meno e quindi chiaramente disincentivarvi anche dal fare questi lavori, ma poi non è detto. Detto questo, siccome ci sono tutte queste cose, siccome il tema è un cantiere aperto, mi sembra il termine più appropriato da utilizzare questa mattina, per chi teme che questi incentivi l'anno prossimo possano essere ridotti o non esserci più, se ha già fatto una sorta di preventivo, se sta già partendo, l'ascoltatore al quale mi riferisco è quello che ci ha raccontato all'inizio della trasmissione, che partirà con i suoi lavori l'anno prossimo, ma ha già fatto tutto quello che doveva fare. Cristiano, magari lo ricordiamo insieme a te, dal punto di vista del preventivo con l'impresa, certo. Ha già fatto la sua comunicazione appunto al comune, la DIA, la dichiarazione di inizio attività, di inizio lavori, e quindi abbiamo suggerito di dare un congruo anticipo all'impresa, se naturalmente si fida al 100%, solamente per evitare di subire una riduzione del bonus l'anno prossimo. Non è detto che questo accada, ma certo. Ecco. No, ovviamente tutte le cose vanno interpretate con buon senso, ci sono imprese e imprese, ci sono situazioni in cui i lavori stanno per partire, quindi l'acconto dovrebbe essere comunque pagato nel giro di poco tempo, e poi ci sono le opportune garanzie contrattuali che dicevamo prima, da pretendere, da inserire all'interno del contratto. Io ricordo, perché poi le cose tornano sempre, che già l'anno scorso, quando il 55% sembrava destinato a non essere più prorogato, proprio Luca De Stefani aveva fatto un articolo sul Sole 24 Ore in cui spiegava come e cosa far inserire nel contratto per proteggere il pagamento degli anticipi. Poi è chiaro che non si va a pagare oggi l'anticipo di un lavoro che verrà fatto a giugno del 2012, c'è sempre situazione situazione e impresa impresa. E infatti, cosa bisogna metterci in questo contratto, patti chiari e amicizia lunga, Luca De Stefani? Ecco, si può considerare il pagamento fatto in acconto quest'anno ai fini del 55% oppure del 36% come caparra confirmatoria. E quindi nel contratto indicare che quell'acconto che viene pagato quest'anno è una caparra confirmatoria. Allora ecco che se c'è l'inadempienza da parte dell'impresa è obbligata a restituirci il doppio dell'importo che noi abbiamo. Ma caparra confirmatoria, il termine è brutto ma il senso è molto chiaro, insomma, se non fai quello che devi fare poi tutto quello che ti ho versato in anticipo me lo restituisci e alla svelta anche, giusto? E moltiplicato per due. Ecco, sì, De Stefani, giusto? Sì, certamente, moltiplicato per due. Allora, senta un po', De Stefani, un ascoltatore ci scrive: ma vale tutto quello che stiamo dicendo fino a questo momento? Io di fronte a questa domanda mi cascano un pochino le braccia, però magari all'ascoltatore un po' di cose che sono successe ultimamente sono sfuggite. Vale anche se si è pagato con assegni a fronte di fatture anziché con bonifici? No, purtroppo no. A parte non il fatto che l'assegno deve essere anche compilato correttamente dal punto di vista della cifra, perché adesso ci sono tutte le norme sull'antiriciclaggio, per cui attenzione, anche gli assegni tra l'altro stanno quasi scomparendo praticamente dal nostro, beh, oddio, non tanto però per ottenere i bonus appunto non si può pagare in maniera diversa che il bonifico. De Stefani, rimarchiamolo con vigore. Sì, bonifico bancario o postale, dove devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che beneficia dell'agevolazione, del soggetto che riceve i soldi e la causale del versamento, quindi le leggi agevolative, quella del 36 e quella del 55%. Giorgio da Asti Telegrafico, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione che seguo quasi tutti i giorni. Vado alla domanda. Sì, dunque, nell'ambito delle agevolazioni del 55% per il risparmio energetico, il mio condominio ha effettuato la sostituzione della caldaia di riscaldamento centralizzato con una nuova caldaia di tipo modulare a condensazione con una potenza di 400 kW. Visto che, comunque preciso, perché i tecnici devono anche sapere questo, non sono state comunque effettuate nessuna opera muraria, volevamo semplicemente sapere se possiamo procedere con la richiesta dell'agevolazione del 55% appunto per la sostituzione, per le spese sostenute in occasione della sostituzione della caldaia. Giorgio, aspetti lì. Allora, l'ottenimento delle agevolazioni fiscali del 55% presuppone anche tutto un lavoro preventivo, ricordiamo, di calcolo, no, della cosiddetta trasmittanza termica, se non ricordo, ma mi ricordo un po', giusto perché ho fatto gli infissi l'anno scorso. Sì, la trasmittanza per gli infissi, esatto. Però, certo, nel caso specifico la risposta è sì. Ovviamente bisognerà bisognerà inviare all'ENEA entro 90 giorni dal collaudo della caldaia una documentazione che nella maggior parte dei casi la ditta termotecnica che esegue i lavori si fa carico di inviare. Se la ditta non fosse in grado, allora bisogna rivolgersi a un tecnico. Per l'installazione della caldaia nuova quindi non è necessario calcolare quanto consuma quell'edificio e quanto risparmio va ad effettuare con la caldaia nuova? No, nel senso quello che vale solo per gli infissi. Quello vale, diciamo, la trasmittanza è un requisito di, appunto, trasmissione del calore che vale per gli infissi. Per la caldaia invece è più un discorso legato al rendimento termico. Comunque, se quella che loro hanno installato è una caldaia a condensazione, al di là poi dei dettagli, dovrebbe avere il bonus, quindi benissimo, non ci dovrebbero essere problemi. E che volevo fare la splendida dimostrando che sapevo tutto sulla trasmittanza, caro Cristiano. Grazie. Hai fatto bella figura. Figurati. Grazie a Cristiano Dell'Oste e Luca De Stefani per essere stati con noi. So che praticamente abbiamo affrontato solo l'1% di tutti i temi che vi sarebbe piaciuto affrontassimo, ma per tutto quello che vi manca potete prendervi la guida di oggi delle Sole 24 Ore. Ci potete scrivere alle Sole 24 Ore collegandovi al sito www.lesole24ore.com/guidacasa. Scriveteci a Salvadanaio e vi risponderemo in ogni modo a tutti. Buona giornata. Salvadanaio.